magazzino c'erano ancora le bottiglie, c'erano un po' quelle bottiglie, le roba, vabbè, gli tirano in quattro, minimo erano in dieci. E vabbè, ragazza, va, meglio si diverta, ognuno. Ma ci vuoi fare, ci vuoi fare, c'è quello. Non so se li Mari. Sì, c'è Anna Maria Speranza. No, Anna Maria Speranza, ci sto anch'io, dicevo. Uia, uia. Bene, bene, bene, bene. Veicolare monobanda che mi hai dato a me, hai capito? riconferma. Che dai. Vabbè, comunque quella staffa lì, quella radio che ci vedo fa, la puoi adattare a quella che mi dà, perché la misura è uguale, sono uguali come misura, cambia i fori, e lo fai a tira e molla, e metti due fettini sotto e due gommini e la tieni sulla notte. Ma siccome io non ne ho gommini per tenerla sulla notte, la capa ha fatto video, ciò la largo quella e uso quella la capa, ma se quella capa di quella radio lì, tu hai la mano e fammi vedere l'altra capa che c'hai, cioè di questa radio, perché questa era la I con questa capa qua. Questa che c'ho io è il cassetto più piccolo di quella c'è tu, perché l'ho misurata adesso per la mia ICOM, ed è più forte ancora, non aggancia, quindi la misura è quella che c'è tu, perciò non abbiamo neanche invertito le staffe, chissà che l'abbiamo messa bene. Sono in garage dentro con la scatola in ascesa a carbonati, la staffa di quella del 701 che c'è tu, non lo so, bisogna che guardiamo, perché questa è piccola, l'ho messa sopra lì come è piccola, non è neanche di questo radio che ho io qua, chissà di che radio è. C'è quella con la patata della Monde, non parla MC60, anche quella, boh. Mamma mia. Sì, mio. Lo chiamo